Guarda che sole, che sortito nanni, che profumo di rose, di garofani e panse. Com'è tutto in paradiso, li castelli so così. Guarda Frascati, che è tutto un sorriso, una delizia, un amore, una bellezza da incantare. Son meglio della champagna, li vini d'este vigne, ce vanno la cocagna, dal tempo de Noè. Li prati a tutto spiano, so frutte, vigne e grano, s'annamo a metterli nanni, nanni. La celariccia più giù c'è castello, che è davvero un gioiello con quel lago d'ancanta. E de fravole un profumo, solo a ne mi puoi senti. Sotto quel lago un mistero c'è sta, de Tiberio le navi son l'antica civiltà. E sera e già le stelle te fanno un manto d'oro, e le belle tranelle se mettono a cantare. Se sente nostro tornello, risponde un ritornello, che coro vi ha sentito, nanni, nanni. Tutto spiano, so frutte, vigne e grano, s'annamo a metterli in anni.